718. Gelatina di lampone in gelo. Se avete del siroppo del lampone numero 723, potete fare all'occorrenza una buona gelatina da servire per dolce in un pranzo. Sciogliete grammi 20 di colla di pesce al fuoco in 3 decilitri d'acqua e mescolate in essa siroppo decilitri 2, marsala decilitri 1, rum una cucchiaiata, zucchero non occorre o semmai pochissimo, essendo molto dolce il siroppo. Per il resto regolatevi come nelle antecedenti gelatine. Se invece del siroppo la fate col lampone in natura, servitevi delle dosi della gelatina di fragole numero 715 e tenete la stessa regola.